T.C. Lee and the Bricklayers con Up and Down the Hill. Proseguiamo con una figura molto importante e molto amata all'interno della scena Northern Soul. La figura in questione è quella di Cody Black, nata a Cincinnati nel 1939. È cresciuto, tra l'altro, a pochi isolati dal quartier generale della King Records, e da adolescente era una presenza costante negli uffici dell'etichetta. Poi nel 1956 Black si unì al gruppo R&B locale i The Victorials, ed apparì proprio già subito su un loro singolo per la Imperial, singolo intitolato I Get That Feeling. Poi anche a Cody Black toccò passare per l'esercito degli Stati Uniti, e dopo questa esperienza tornò a Cincinnati, ma scoprì che il suo gruppo il suo gruppo i Victorials non c'era più, si era sciolto. Quindi poi la sua carriera proseguì e debuttò da solista con il brano Come to Me Girl, accreditato come Cody Black and Celestials. Poi la carriera nel corso di tanti anni di Cody Black è proseguita con diversi successi molto molto apprezzati, soprattutto dagli amanti del soul, e in particolare poi Cody Black è tornato nel 2000 con Singing Cody B. Black, prodotto con il marchio Mustang Sally dal produttore Mac Rice. Nel corso di tutti questi anni i dischi di Cody Black sono sempre andati a ruba da parte dei collezionisti di Northern Soul. Questa sera qui con su Radio Wombat ci ascoltiamo di Cody Black questo suo brano che risale al 1968, all'epoca stampato su etichetta King e riproposto poi dalla Kent Records, questo brano che si intitola I'm Slowly Molding, che si trova esattamente sul lato B, mentre sul lato A si trovava Keep on Keeping On. Quindi ci ascoltiamo Cody Black, I'm Slowly Molding. I'm slowly molding. E questo gran brano era di Cody Black. Prossimo pezzo, il prossimo pezzo è di Shirley Walls. Shirley Walls ha in realtà inciso davvero una manciata di 45 giri alla fine degli anni 60, ma nonostante questo ha dimostrato di avere un grandissimo, grandissimo talento vocale. Anche Shirley Walls si è formata con il gospel, quindi iniziando a cantare in chiesa, prima di iniziare a cimentarsi con il soul intorno all'anno 1965-1966. Ormai residente a Chicago, tutta la sua musica fu creata e incisa proprio nella città del vento statunitense di Shirley Walls. Vi propongo questo brano del 1967, anche questo stampato all'epoca su etichetta King e poi ripreso dalla Kent. Brano del 1967 che si intitola That's How Long, tra parentesi, I'm Gonna Love You. That's How Long, Shirley Walls. Passiamo ad un'altra stampa King, sempre del 1967, prodotta da Bill Shepard, la voce di Emil Evans, e ci ascoltiamo un must del Northern Soul. Questo brano si intitola Why, Why, Why. I want abbiamo ascoltato Mill Evans. Il prossimo pezzo invece è di Willie Hatcher, questo cantante originario del Mississippi, che durante la sua carriera ha suonato principalmente, è suonato e cantato principalmente blues e musica gospel. Questa sera invece andiamo nel 1971 con il suo brano Head Over Heels. Questa è Radio Wombat, state ascoltando Soul Time con questa seconda puntata speciale dedicata alle stampe e ristampe della Kent Records. Willie Hatcher con Head Over Heels. Quindi andiamo nel 1970 con una bellissima, bellissima produzione di James Brown, con un brano arrangiato da Frank Harrington. Ci ascoltiamo i Determination con questo brano che si intitola Bing Bong Goes My Heart. While I was made it through the Bing Bong, Goes My Heart, The Determination. Quindi a questo punto, dato che ci siamo ascoltati una produzione di James Brown, ve ne propongo un'altra, sempre appunto prodotta da James Brown, con un brano scritto da Charles Sperling ed eseguito da Junior McCants, quindi una tripletta la definirei così, che tra produttore, scrittore del brano e cantante, insomma tre figure molto molto grosse per quanto riguarda la musica soul e la black music in generale. Ci ascoltiamo questo brano del 1966, cantato appunto da Junior McCants. Il brano si intitola The Boy Needs a Girl. Junior McCants con The Boy Needs a Girl, brano prodotto da James Brown. Ho preparato il prossimo brano dei Fabulous Dinos. La storia dei Fabulous Dinos inizia in una scuola superiore, in una high school di Atlanta nel 1959. James Henry Walker, Bobby Dixon, Alan Pace, Ezekiah Sheffield e Ricky Andrews erano degli studenti tutti innamorati del suono che veniva fuori dai dischi dei The Five Royals o James Brown e Fabulous Flames, e quindi come molti altri adolescenti dell'epoca decisero di formare loro stessi un gruppo vocale che decisero di chiamare per l'appunto The Fabulous Dinos, Dinos mi sembra la pronuncia corretta. Dopo aver iniziato con l'esibirsi presso delle feste in città, il gruppo ha poi ben presto iniziato ad esibirsi nei club locali e a ottenere subito un discreto seguito locale. Poi nel 1961 questi ragazzi si diplomarono e iniziarono a prendere sul serio la possibilità di fare i musicisti, quindi di esibirsi con continuità. trovarono, possiamo dire così, sulla loro strada i Masters Sound Studios di Billy Lowery, e lì registrarono proprio il loro primo singolo per l'etichetta NRC Saber, primo singolo che si intitolava Instant Love. Poi nel 1963 ebbero anche la possibilità di incidere per la Musicore. Poi, proseguendo durante la loro carriera, vi do giusto cenni storici volanti per non tenervi mezz'ora con le mie parole, proseguirono la loro carriera e incontrarono poi sulla loro strada anche l'etichetta King Records. Quindi in questa puntata la King Records è presente molto molto spesso nei brani che vi sto proponendo. Poi nel 1969 i Fabulous Dinos potevano es essere considerati a tutti gli effetti un gruppo sciolto, nonostante appunto in questo loro percorso di circa una decina d'anni abbiano inciso brani molto molto belli. Ma Ricky Andrews continuava e ha continuato per diverso tempo a esibirsi nei nightclub di Atlanta, esibendosi con varie band, accompagnato da diverse band nel corso del tempo. Piccolo aneddoto, come poi in realtà è successo a tantissimi, tantissimi artisti della musica soul che sono poi stati riscoperti diversi anni dopo, spesso e volentieri decenni di anni dopo. Molti di questi artisti avevano ricevuto, se non pochissimo, addirittura nessun denaro dai loro lavori, quindi hanno dovuto poi barcamenarsene e fare tutt'altro durante la loro vita, tranne che per poi scoprire che magari un loro disco, di cui magari si erano dimenticati addirittura di averlo registrato, comunque brani rarissimi stampati in pochissime copie che avevano completamente rimosso dal loro cervello, scoprendo poi che magari sono dischi che valgono tantissimo, che nel mondo c'è tanta gente che adora la loro musica. Questo, in questo caso, un esempio può essere proprio quello dei Fabulous Dinos. Quindi, siccome io apprezzo i Fabulous Dinos, questa sera vi faccio ascoltare questo bellissimo brano del 1965 su etichetta King, di cui, come vi dicevo prima, per questo brano ho visto pochissimi soldi. Brano scritto da Robert Fierce e Ernest Hawley. Ci ascoltiamo The Fabulous Dinos con I Have Enjoyed Being Loved by You. Every little moment I've spent again with baby mama, but what in this world can I do? I'll go. I mean, I believe I got to leave. Says a weak man to fall upon a leading prize, but I just have to be weak because I've cried, darling. Every time I think about you, my heart dies, baby. It was your love that took me through this day, darling. Your love that makes me wanna live to see tomorrow. You know, I know the next day's gonna rain. Might rain a little bit of sunshine, and it'll mean it might rain a rain. The Fabulous Dinos con I Enjoyed Being Loved By You. Proseguiamo con il prossimo pezzo, proseguiamo con Mary Johnson, nata nel 1898 o 1900, non è dato sapersi, è scomparsa nel 1983, anche se alcune fonti suggeriscono il 1970. Infatti si ritirò molto presto dalla carriera musicale, di lei si persero le tracce, ma questo non le impedì di lasciare in eredità tanti bellissimi brani. Mary Johnson era una cantante blues, di blues classico americana, fisarmonicista e compositrice. Ha inciso diversi brani di grande qualità come Dream Daddy Blues o Western Union Blues, K to the Mountain Blues, eccetera eccetera. Ha lavorato anche con Pete Wetsoe, Tampa Red, Kokomo Arnold, Roosevelt Skies e tanti tanti altri. Nata appunto a Yazoo City nel Mississippi, è nata probabilmente come Mary Smith o Mary Fair, insomma di Mary Williams non si sa veramente quasi niente. Prima e poi della sua carriera discografica, la Johnson si trasferì a St. Louis, dove già nel 1915 lavorava con già da adolescente lavorava con molti dei più importanti musicisti blues dell'epoca. Poi negli anni 50 la Johnson aveva già rinunciato da molto molto tempo alla sua carriera musicale e si concentrò principalmente sul suo lavoro in ospedale, per poi essere riscoperta dallo storico del blues Paul Oliver nel 1960 per una intervista, e da lì vennero fuori insomma un pochino di nuovo i suoi lavori e iniziarono a essere di nuovo apprezzati. Ci ascoltiamo Mary Johnson su questa etichetta Foxy con un brano del 1961. Il brano si intitola These Tears. Please. E dopo questo blues di Mary Johnson che si intitola These Tears, torniamo a sonorità più prettamente soul. Ci andiamo ad ascoltare gli Sweet Tears con un brano del 1966, etichetta Kent, brano che si intitola This Couldn't Be Me. Con This Couldn't Be Me. Allora, guardando l'orologio, come sempre il tempo per il soul qui su Radio Wombat per questo mercoledì è finito, o meglio quasi finito. Abbiamo il tempo per un ultimo brano e vi propongo Vernon and Jewel con il brano That's a Rocking Good Way. Vi do due cenni sulla figura di Vernon Garrett, membro appunto del duo Vernon and Jewel. Vernon divenne consapevole del suo amore per la musica e l'intrattenimento già all'età di 10 anni, ispirato da grandi artisti come Ray Charles, Big Joe Turner, Lowell Fulsom e tanti altri. Durante in questo periodo iniziò a intrufolarsi nel retro dei locali proprio per ascoltare questi grandi musicisti e intrattenitori, decidendo che appunto questa era la strada che voleva percorrere e questa era la sua vocazione. Con grande determinazione questa sua intenzione negli anni divenne realtà. Come la maggior parte dei cantanti, lo ripeto praticamente ogni puntata di Soul Time, le sue radici affondano in chiesa ed ha iniziato anche lui la sua carriera musicale e ha iniziato a fare insomma esperienza davanti a un microfono cantando musica gospel, diventando ben presto il vocalist principale del famoso quartetto gospel, gli Swan Silver Tones. Poi dopo anche lui, dopo essersi dovuto sobbarcare il servizio militare nella Marina degli Stati Uniti, Vernon al ritorno da questa esperienza si è trasferito nella quella che può essere definita una delle capitali mondiali dell'intrattenimento, cioè a Los Angeles in California, dove ha iniziato la sua carriera come cantante e percussionista, infatti era anche un percussionista. In seguito si unì a un gruppo molto molto importante come gli The Sliders e iniziò ad esibirsi appunto con grande continuità proprio con questo gruppo. Si esibito anche con cantanti blues di grande talento come Bobby Blue Band, Ted Taylor e diversi altri, e proprio durante uno di questi spettacoli incontrò Jewel Whittaker, una promettente cantante che in seguito divenne sua moglie e compagna di canto. Vernon e Jewel hanno avuto una carriera di buonissimo successo, viaggiando in particolare durante gli anni 70 in tutti gli Stati Uniti, anche in Canada. Poi Jewel scomparve prematuramente e Vernon ha continuato la sua carriera di cantante da solista, registrando diversi album e 45 giri, scusate, cioè 7 pollici, tra l'inizio e la fine degli anni 70. Chiudiamo questa puntata di Soul Time con un brano proprio di Vernon e Jewel, un brano di marito e moglie, che si intitola That's a Rockin' Good Way, brano sempre su etichetta Kent. Quindi chiudiamo qui le nostre due puntate speciali dedicate all'etichetta Kent, che sicuramente continueremo ad ascoltare tantissimo. Brano del 1964, su questo 7 pollici, dove sul lato A si può trovare anche il brano Those Lonely Lonely Nights. Vi ricordo, come sempre, in chiusura di puntata, che potete ascoltare il podcast o registrazione della puntata appena andata in onda su radiowombat.noblogs.org, dove ascoltate sia sul time che tutte le altre trasmissioni, sia in streaming che in podcast di Radio Wombat. Soul Time torna mercoledì prossimo alle 19 e vi ricordo anche in replica il venerdì mattina alle 10 di mattina e il sabato sera alle 21. Io vi saluto e vi lascio con Vernon and Jewel con That's a Rockin' Good Way. If you're gonna give me good kisses like that, honey, don't you know I'm gonna give it right back. Oh, that's a kissing good way. Oh, that's a kissing good way. Now, that's a kissing good way to mess around and fall in love. If you're gonna start out hugging me tight, tell me about don't it. Don't mess around, just hug me right. There's a hugging good way. Oh, I like that, Jewel. Yes, it's a hugging good way. Yeah. That's a hugging good way to mess around and fall in love. Dig this, you know you're calling me on the phone just because I was all alone. You came around, wooing. You better ask somebody if you don't know what you're doing. Oh, you kissing me. Don't like come around knocking a rock and roll, cause that's a rocking good way. Tell me about it, baby. Man, it's a rocking good way. Oh, yeah. That's a rocking good way to mess around and fall in love. Oh, you better know. Mm-hmm. to you. Well, how about you, baby? You like to have a good time? Oh, honey, I like to swim. Oh, I'll go for that too, honey. Well, let's swim.